onda brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Bentornate signore, ci siamo lasciati con le padelle in mano, ci siamo lasciati con la necessità di dar da mangiare, di fornire nutrimento, di dare lustro alla festa, di dare essenziale ragion d'essere a tante padelle, pentole, manicaretti, negozi pieni di cibare. Vi ho lasciato nella giornata di ieri soltanto con lo sguardo, non con il commento radiofonico, incolonnate in fila di fronte ai negozi che facevano i saldi in questa sorta di coatta maniera per festeggiare l'opulenza, di andare a comprare cose che non servono, di ammassarsi, di correre in questa frenetica corsa. Sembrava una sorta di visione post-atomica. Dopo la guerra nucleare i sopravvissuti vanno, saccheggiano, cercano risorse, si danno da fare, non si guardano nemmeno in faccia, nemmeno sembrano appartenenti più alla specie umana, questi uomini, donne che corrono piene di borse, con dentro giacche verdoline, pantaloni roselline, scarpe fatte apposta e costruite apposta per le persone che vanno a comprarle nei saldi. È bellissimo vedere poi il giorno dopo le persone vestite con i saldi, si riconosce a 100 chilometri l'abituccio ricomprato per il saldo, perché l'abituccio nuovo, ancora bello impacchettato e spiegazzato, che sembra appena uscito dal negozio, stranamente verso il 5-6 gennaio, e l'hai comprato sicuramente ai saldi, si vede da quel vellutino mai demodé, da quel colorino che non si era mai visto prima, da quel taglio e da quella foggia che puzza tanto di arraffazzonamento saldato. Beh, signore, oggi dedico questa trasmissione a voi, soprattutto alle vostre radici storiche, soprattutto alle vostre vocazioni nascoste che molto spesso sono state rese eterne dalla fiction, dalla commedia che tanto ha ben raccontato il nostro paese. Oggi leggo che la copertina di Economist, il prestigioso settimanale britannico, dedica un ampio spazio al sorpasso delle donne nel mondo del lavoro. La svolta rosa, lavorano più donne che uomini e nel frattempo noi guardiamo le donne che non lavorano. Amore, siamo arrivati a San Bart con quella bella arietta salmastra. Mi sentirò subito il tuo mandrillone. Germano, ma che ci fai tu qui a Los Angeles? Carlo, mi devi tenere il gioco con la mia famiglia. Scusa, ma quando sono sparito come potevo sapere che tu fossi... Carlo, io ero incinta di 7 mesi. Veramente? Ma che mi dici? Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. È il nostro critico televisivo, autore di Zemallandia, colui che ha avuto e sta pagando la perigliosa missione di seguirci attraverso il mondo della riproduzione del nostro, della nostra società, attraverso il cinema italiano, soprattutto il detestabile B-movie, e non ultimo abbiamo trattato il tema centrale che ha appassionato il dibattito culturale di queste feste natalizie, che è quello appunto del cinepanettone. Il cinepanettone appartiene a un genere che merita premi, gratifiche e sovvenzioni perché fa cassetta, l'unica produzione del nostro paese cinematografica che la gente vada a vedere, per cui paghi il biglietto, per cui riempa le sale cinematografiche. Giuseppe Sansonna, cosa abbiamo sentito? Cosa c'entrano le donne? Cosa c'entra il cinepanettone? Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo delle donne e delle mogli nel cinema italiano. E questo frammento che abbiamo ascoltato è Natale a Beverly Hills, c'è cioè la fulgida moglie Sabrina Ferilli. Hai detto che in questi giorni si è dibattuto molto sulla necessità di pagare, di sovvenzionare anche come film d'essè anche Natale, il cinepanettone. Insomma, a chi ha sarà dato, diceva la Bibbia, ai ricchi. Dei ricchi e il regno dei cieli, sembra. Da una parte ci sono state appunto le vergini vestali che sono stracciati le candide vesti gridando all'oltraggio, come viene considerato un genere culturalmente considerabile e valutabile il cinema rettone, l'orrenda sentina di tutti i nostri vizi, tutte le nostre perversioni. Qualcun altro ha invece detto, se sono i film che la gente va a vedere, probabilmente giusto siano sovvenzionati. Tu come la pensi, Sansonna, a proposito? Ma io non lo so, io penso che comunque il botteghino dà li sovvenzioni ampiamente, quindi sono gli unici film all'interno dell'industria cinematografica italiana e con un saldo totalmente inattivo, ampiamente inattivo, che si sovvenzionano da soli con una produzione reale, cioè economicamente sani, quindi non credo che c'era necessità di sovvenzionarli ulteriormente. Beh, questa mattina invece vorrei sollecitare soprattutto le ascoltatrici che ultimamente sono state un po' defilate per i temi schifosamente dedicati al pubblico pubblico maschile nei quali ci siamo compiaciuti prima delle vacanze di Natale, non ultimo, come ho già detto, quello dedicato alle donne che già stavano cucinando verso il 20 dicembre, già erano con la padella in mano. Beh, oggi vorremmo un riscatto da parte vostra. Vorremmo la prova attraverso la vostra esperienza e il vostro punto di vista di quanto poi la commedia italiana sia stata realisticamente un occhio attento sulla nostra realtà sociale, o quanto in realtà, come molti dicono, mostri solo gli aspetti deleteri, gli aspetti non coerenti a quella che è una linea comune di vissuto quotidiano. Beh, la donna, la moglie, l'amante, l'amica, la compagna, la fidanzata hanno avuto altissime e importanti rappresentazioni nel cinema di genere italiano e nella commedia italiana. Abbiamo sentito Sabrina Ferilli, una delle classiche mogli amanti, a seconda del punto di vista, sia che si veda dal punto di l'uno o dell'altro protagonisti maschili, che rappresenta comunque una figura ben identificabile, la cialtrona, l'arricchita, la donna senza cultura, la donna senza spessore, la donna che in fondo è tralasciata e stravaccata anche nelle proprie passioni, lo dimostra anche gli uomini che accanto. Noi elaborammo, Sansonna, una teoria sulle mogli e sui mariti, cioè sui maschi e sulle femmine nella commedia italiana. Ci troviamo qualche punto nella Ferilli moglie? Io la Ferilli comunque la ricordo molto anche sacerdotessa pagana dello scudetto della Roma, ti ricordi quando apparve vestita col costume, col bikini color carne sì, per simulare che fosse nuda come aveva promesso. Sembrava uscita da Conan il Barbaro, quindi deve uscire un po' fra questo tinello casereccio di Fiano Romano e Conan il Barbaro, insomma, in bilico fra questi due mondi. Quindi oggi rappresenta anche una bellezza pomellata, che è una di quelle più frequentata dalle signore italiane, quindi nella sua pomellazione è una nuova riedizione della femmina italiana. 800 24 00 24, quanto vi vedete nella Ferilli, ma quanto vi vedete soprattutto in una galleria che stiamo per mostrarvi, anzi per farvi ascoltare, delle più significative rappresentazioni della moglie, della sposa, dell'amante, della fidanzata italiana. Boom, una botta dietro a mano aperta, a mano aperta, così panfeto, e uno dall'ultimo piano si è affacciato. Figurati, avrei voluto darti un consiglio, una lezione per come cammini. Perché? Come cammini? Direi un po' in fuori. Buongiorno, zia, dormito bene? Oh, sempre uomini si parla in questa casa, sempre, sempre. Io, se non era per mamma mia che mi spiegava tutto, all'età vostra credevo ancora che i bambini ne assessero, sai come? Sotto un cavolo. Con un bacio. Scusa, zia, vero? Non è per offendere, ma non te l'avevano mai dato un bacio? Un bacio? Mai. Ecco, qua siamo nel 1955, il salto è stato rischioso e periglioso. Abbiamo, caro Sansonna, una Trimurti sulla quale poi si è informata tutta una tipologia di categorie femminili: Sofia Loren, Franca Valeri e Tina Pica. Sofia Loren era l'edizione prepomellazione della gagliardia fisica della moglie, della sposa, dell'oggetto del desiderio. Franca Valeri rappresentava l'aspetto arcigno, l'aspetto fastidioso, la terribile moglie di Alberto Sordi, che lui tenterà di uccidere in maniera impossibilitata a farlo. E infine Tina Pica è l'esito ultimo, è lo spettro, è ciò che vedevano gli italiani negli anni del boom nella moglie che già sarebbe suocerizzata, e la suocera è lo schifoso esito terrificante, mummificato, acido, cattivo, violento della moglie in via di trasformazione. Tu come la vedi? Io la vedo, sì, in parte così, ma è anche molto ironica. Tina Pica è una sorta di versione femminile di Totò. Femminile è una parola ardita in sì, caso. esatto, infatti lei cominciò addirittura con ruoli maschili in giovinezza. Tina Pica ha fatto Amleto, ha incarnato Amleto nell'adolescenza, immagino. No, era perfetta nel creare questa sorta di morale arcigna che incombe sulle due cugine in questo film, Il segno di Venere di Dino Risi. Sono le due cugine, una altamente erotica, prorompente, maggiorata come la Loren, e poi c'è invece la Valeri che cerca di dargli consigli sulla vita, e poi la Loren ovviamente di soffierà tutti gli uomini. Però la Pica rappresentava una versione asessuata, violenta della morale ancora imperante negli anni 50, questo era. Anche mi sembra In pane, amore e fantasia, sì, più o meno a ruolo del genere, è la castigatrice degli appetiti carnali del maresciallo dei carabinieri, la perpetua caramella che ne controlla le bizzarrie, gli estri di Desica, che c'è anche in questo film. È una mia È un mio flash che in questo momento non ha risposto, lo chiedo a te, e scusa se approfitto. Ci fu anche il trash di Napica, nel B-movie italiano più terribile, quello con Alvaro Vitali. Ci fu un periodo che ci furono le imitazioni dei personaggi famosi. C'era un'attrice che simulava di essere Tina Pica in dei film terrificanti. Qualcosa del genere lo ricordi? Sì, vagamente. Io ricordo anche i trash però fatti dalla stessa Pica, tipo La Pica sul Pacifico. Ti ricordi queste, tipo La Diga, il remake in cui La Pica diventava protagonista di questi film, tutti incentrati su lei, su questo sempre personaggio iperarcigno, durissimo, insomma, però esilarante allo stesso tempo. Poi naturalmente c'erano anche le versioni strappacuore, la mamma che affondava le sue radici eterne in periture, in ciò che di più puro e più sacro c'era appunto nell'animo di ogni italiano. Vabbè, ho capito. Quanto ti servirebbe? Tu lo sai che non ce l'ho i soldi. 200 sacchi. E dove li trovo? Ma non lo sai che me li sono spesi tutti per la casa, quelli che c'avevo? Per la licenza, per il banco in piazza? Ah, ma te vado a giocare. Ma allora non mi hai capito. A che te lo insegno io come sai fare i mediai grani? Ma allora te lo sei scordato. Ancora non te sei saziato. E che sarà mai? Se ci metti un po' di buona fantasia, con una decina di giorni rimedi, non te pare a roba? Questa è la... il colpo d'artiglio di Pasolini, che va a affondare, trasformare, capovolgere, ma allo stesso tempo mostrare le viscere di tutto ciò che c'è di più sacro, più detestabile nella nostra visione materna, e allo stesso tempo della sposa, che poi si confondono, si mischiano e sovrappongono, non è mai ben chiaro, ben specifica. Mamma roba, mamma, e allo stesso tempo coatta prostituta, viene rimandata sulla strada, sul marciapiede, dall'eterno pappone che vorrebbe infangare la sua redenzione di verduraia. Ecco, vediamo quanto della moglie, della sposa italiana viene tirato fuori e mostrato in maniera speculare da Pasolini in Mamma Roma. Allora, qui c'è appunto la Magnani alle prese col magnaccio metafisico Franco Citti, che Pasolini ha ripescato direttamente da Cattone, che era di 2 anni prima. Questo film Mamma Roma è del 62. E qui c'è la Magnani che cerca un riscatto da essere proletaria, prostituta, nel diventare piccolo borghese, verduraia, come in Campo dei Fiori, film che aveva fatto diversi anni prima con Fabrizi. Cerca di cambiare, diventare madre, diventare buona madre, ma il ritorno alla condizione primaria di prostituta, di Citti, che incombe su di lei come un avvoltoio, non lo permetteranno. Questo magnaccismo maschile, però, sotto varie venature e varie sfumature, è molto presente, non tanto in quanto lenone nella accezione più concreta del termine. Non so quante mogli ricche e schifosamente inguardabili Alberto Sordi ha corteggiato e ha sottollerato, e quanto nella commedia italiana esiste questa figura del marito che vive alle spalle un omino piccolo, miserrimo, schifoso, che vive alle spalle una donna invece opulenta, ricca, che ha nelle mani il vero potere di acquisto della famiglia. Sì, degli uomini parassiti, insomma, parassiti che vivono su queste donne. Anche Franco Fabrizi, un altro attore, interpretava spessissimo questi ruoli di sorta di viver parassita, che fa la bella vita, non fa nulla, usa la sua avvenenza per appunto vivere, succhiare le risorse di queste donne inguardabili, ma appunto piene di denaro. 800240024, stiamo cercando in tutte le maniere di suscitare la vostra ira, il vostro orgoglio ferito, perché non telefonate, non dite che in realtà questi modelli non esistono mariti parassiti, non esistono donne di questo tipo, non c'ha nulla a che fare questa distorta lettura della commedia italiana con quella che era la realtà che vivete tutti i giorni. Ma se siete circondate da Pine Fantozzi, da Moniche Vitti, da Tine Piche, da Sofia Loren, da Pomellate Ferilli, vi prego chiamate. Giuliana, dimmi che intenzioni hai. Che cosa vuoi fare? Niente. Ma è assurdo. È inutile che ti preoccupi per me. Sono mesi che tutti non fanno altro. Vado dai medici e mi parlano di me. E invece è quando resto sola che sto male. Non devi pensare queste cose, Giuliana. C'è qualcosa di terribile nella realtà. E io non so cos'è. Nessuno me lo dice. E anche tu mi hai aiutato, Corrado. una delle più fulgide e più importanti occasioni di espiazione per chi avesse una vita troppo movimentata è Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni. E in questo lungo, macerante film in cui non accade mai nulla, qual è la figura di Monica Vitti? Monica Vitti introduce la donna altoborghese che soffre, che vive angosce esistenziali, che comincia a sentire i capelli che le fanno male, con una celebre battuta per una poesia di Amelia Rosselli, comincia a registrare con un piccolo registratorino la sua angoscia e a esternarla in questo modo. Il suo partner qui è Richard Harris, che sicuramente avrebbe preferito le torture che poi gli serviranno in Un uomo chiamato cavallo, gli Apache, insomma, piuttosto che stare al cospetto l'appendimento per i pettorali con quei begli uncini che fanno tanto piacere. Ecco, però Deserto Rosso, che è del 64, non può essere considerato una sorta di preveggente lettura della donna problematica, della donna psicanalizzata, della donna macerata dai problemi, che su cui hanno attinto a piene mani tanti registi e tanti autori negli anni a seguire? No, lo è in pieno. Pasolini diceva spietatamente che i personaggi di Antonioni non sanno perché soffrono ma non sanno perché. Qui siamo in pieno donna, appunto, che vive un tenore di vita altissimo e che però comunque vive questo vuoto, vive questa impossibilità di comunicare con i mariti industriali molto, molto determinati, molto padroni di una società di cui sono assoluti dominatori. Sì, il vero problema di quegli anni, non scordiamo gli anni in cui è stato collocato, che ci fu un salto in avanti velocissimo, immediato. E queste signore, è un classico tipico della commedia, di un movimento tipico di ogni racconto familiare in quegli anni, ci sono i mariti occupatissimi a far soldi, perché fare soldi era la più grande lussuria di quegli anni, mogli che erano improvvisamente sprofondate in agi, pellicce, automobili, case ben arredate, case pulite, case sterilizzate, asettiche, con servitù, con tanto di grembiulino e crestina in testa, cosa non è mai accaduta, non c'era più nemmeno la figura della serva come era nei film anni 50 o pre-guerra, ma improvvisamente c'è il maggiordomo e la cameriera, non si capiva, il maggiordomo tipo casa Vianello, c'è un maggiordomo in una casa fatta di due stanze, cucinino e salottino. Dimmi. Non c'era Tina Pica a sdrammatizzare tutto, sarebbe bastata la servitù di Tina Pica, incarnata da Tina Pica, una battuta avrebbe forse dissolto questa angoscia metafisica. Sì, ma ecco, in questo clima in cui potrebbero essere felici, fare quello che vogliono, invece cominciano a capire che esiste una sorta, un po' sarà l'esistenzialismo che si sentiva da lontano, si respirava come qualcosa che era sempre visto da noi come una caricatura di un modo d'essere, e quindi improvvisamente, ancora non era di moda la psicanalisi, non era entrata così violentemente negli usi quotidiani l'appuntamento con lo psicanalista ostentato e portato come fosse un orgoglio quotidiano, ma c'era questa idea intanto della donna che si macerava, era la coscienza malata di ciò che stava vivendo e non capiva perché. Sì, lo psicanalista è sostituito appunto dal registratore al quale loro esternano, queste donne e le eroine di Antonioni esternano le proprie angosce, oppure il muro, oppure oggetti inanimati presenti nella casa, diventano gli interlocutori, con un tentativo continuo di fuga verso invece la natura. Intanto in Antonioni si aprono questi scenari meravigliosi della Sardegna che si oppongono invece al mondo ordinato, grigio, industriale e della speculazione edilizia, che invece è il mondo maschile, quello che se li sarebbe poi mangiati tutti quei panorami. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Finalmente qualcuno che risponde al nostro appello. Io capisco che fra saldi, panettoni e capitoni esiste una catalessi fisiologica del pubblico. Mi dica, Roberto. No. Lei ricorda queste figure mattina femminili? Beh sì, me le ricordo tutti. Io ho 55 anni, pertanto è una bella età. Insomma, ne abbiamo qualcuno troppo. Comunque sono passati abbastanza bene. No, io mi ricordo abbastanza questi film. Mi ricordo anche i film che parlavate qualche settimana fa di Pierino. Questi film un po' che non avevano contenuto fondamentalmente. Io ieri sera sono andato a vedere proprio Natale a Beverly Hills. Devo dire che è il solito film di De Sica. Sì, ma oggi parliamo però delle donne, sennò rimaniamo sul vago. Le figure femminili che la commedia italiana ha elencato in una terrificante galleria negli ultimi 50 anni, che noi abbiamo vissuto a pieno, intensamente e anche con grande soddisfazione, come dice lei, sono realmente riscontrabili poi nella nostra realtà? Ma forse sono i film di una certa età oramai, raffigurano abbastanza la nostra società reale, cioè i papponcini, queste persone, se lei legge i giornali, guarda un po' la cronaca, queste persone che vengono dall'est, che sono sfruttate, fondamentalmente sì, sono così. Poi le italiane invece sono diventate un attimino, un pochino più libertine, e sono leggermente tipo i film tipo Natale Beverly Hills. Sì, cioè, che siano diventate un pochino più libertine, che oggi magari c'è una maggior libertà nel mostrare il proprio libertinaggio. Il libertinaggio è sempre stato praticato in ugual misura in tutte le epoche, questo almeno è il mio punto di vista. Bianca, velocemente, tanto per sentire il piacere di avere una donna. Buongiorno. In prima parte. Buongiorno Bianca. Buongiorno Gianluca, tanti auguri e complimenti per la sua libertà mentale. Io volevo dire questo, che non è tanto che non ci non sia... Non me ne ero mai accorto, grazie. Non dico che non ci sia corrispondenza tra le figure femminili della commedia all'italiana e la realtà italiana. Credo che sia abbastanza comico, proprio comico, anzi grottesco, vedere le donne trasformate più in maschere, nel senso che esiste la moglie, la puttana, l'amante, la beghina, però esistono in qualche modo in una complessità nella stessa figura umana. Lei quale categoria si sente di appartenere rispetto a queste che ha appena tutte elencato? Insieme, come tutte diceva insieme. Alda Merini, in me l'anima c'era della sanguinaria, della santa e della puttana. In verità siamo tutto. E quello che è comico e grottesco, anzi, è che le vedi trasformate in maschere, no? In icone, mentre le persone reali non sono mai a senso unico, sono ricche, poliedriche, piene di sfumature, di sfaccettature. Sì, però il teatro, la rappresentazione della realtà ha sempre avuto bisogno di creare degli stereotipi, dal teatro classico ci sono sempre stati degli stereotipi che ci ricordano alcuni aspetti della nostra esistenza. Però è la commedia, appunto, la maschera. In verità la vita poi è un'altra cosa. Va bene, Bianca, la ringrazio. Grazie di aver rotto il muro dell'indifferenza. Ci sentiamo tra un istante. 800 24 00 24. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. Ah, lei fa il cinema. E al Bolin ha parlato tante volte con me. Pensa pure del tu. Oh, per niente mi ricordo, buio totale. Beh, certo, se lo vedessi, io sono anche una buona fisionomista. Non so come vuole lei. Va bene come vuoi tu. Sì, credo di non aver nulla da fare oggi, aspetta che ci penso. No, no, va bene. Sì, da Canova. Arrivederci, ciao. Ma pronto, un momento, cosa, come ti chiami? Ti potrò baciare con le Ci vogliamo veramente divertire. 800 24. Stiamo cercando di ricordarci come il cinema italiano, la commedia italiana, ha sempre visto le compagne della nostra vita in maniera distorta, in maniera macchiettistica, ma attraverso appunto alcune categorie del femminile che in realtà rappresentavano bene la società degli anni che hanno preceduto la nostra contemporaneità. 800 24 00 24, per chi volesse riconoscersi in alcune delle figure che stiamo noi delineando, che poi erano rappresentate da attrici soprattutto che hanno fatto la storia del nostro cinema. Giuseppe Sansonna, che è in studio con noi, autore di Zemallandia, critico cinematografico. Ecco, in questa ultima io la conoscevo bene, abbiamo una Sandrelli che rappresenta forse non proprio uno stereotipo così netto rispetto a quello che si diceva prima. Qui siamo al cospetto di un regista poco conosciuto ma straordinario del cinema italiano, forse uno dei più grandi, che è Antonio Pietrangeli, e il film, io lo conoscevo bene, del 65, presenta una Sandrelli che non è un cliché da commedia all'italiana, ma è un personaggio molto sfumato, molto ricco di dettagli, che anche tragici. Arriva a Roma e cerca una collocazione nel mondo dello show business, e scivola di uomo in uomo con diverse tipologie maschili, al cospetto di diverse tipologie maschili che ne abusano tutte di questa sua sorta di pigra indolenza di ingenuità, e poi c'è un finale appunto tragico, ma all'interno di questo ci mostra una donna appunto che trova cerca di trovare una collocazione, cerca di trovare un'identità, cerca di mostrare anche la propria disinibizione, ma allo stesso tempo di è moderna, è una ragazza moderna. Comunque la ricerca di sfondare nel mondo dello spettacolo, allora del cinema, del fotoromanzo, oggi della televisione, come si vede ha una storia ben precisa, una sua genealogia. La bella donna che viene dalla provincia e si mette in mano ai pescecani romani, che hanno in mano le leve dello spettacolo e quindi la visibilità, che in realtà lo sfondamento lo intendono in altra maniera e quindi ne fanno uso e abuso abbondante. È un po' la storia di quello che oggi viene chiamato il vallettismo, il velinismo, il grande fratellismo, non so adesso, con tutte le moralistiche accezioni che definiscono questo fenomeno. Qualcun altro mi sta scrivendo su Facebook, fra le figure più fulgidamente ricordate, quello di Monica Vitti e Alberto Sordi in Amore mio aiutami, soprattutto per questa necessità della donna di salvare capre e cavoli, di tenersi l'amante e il marito lecito, che vorrebbe un avallo del marito del fatto che lei si spupazzi un maestro di musica, e Alberto Sordi naturalmente era ancora una volta quello che portava i soldi a casa, lavorava, e quindi la possibilità di questa poliandria lecita senza nemmeno avere il rischio dell'adulterio. E poi Silvana Mangano e Alberto Sordi pure in un'altra felice accezione. Sentiamo adesso però Rosanna prima di andare avanti. Rosanna, buongiorno. Buongiorno. Ah, scusi, Rossana. Rossana. Sì, buongiorno. Sì. Sono in linea? Certo, sì. La sta parlando con me. Ma dunque, intanto buongiorno. Volevo ringraziare per aver avuto la vostra risposta, poi volevo... Ecco, rispetto a queste cose che avete detto, volevo dire che comunque la donna in questo momento vive un momento di schizofrenia, perché non riesce bene a capire qual è il suo ruolo, nel senso che... Beh, anche l'uomo, guardi, che non sta messo benissimo. Anche l'uomo, certo. Ma forse noi di più, in quanto siamo passate da un momento in cui eravamo, diciamo, oggetto, stiamo cercando di diventare soggetto, ed è veramente complicato. Ma perché è tanto brutto essere oggetto? Beh, diciamo, sì, forse sia. No, io sicuramente ambirei, è stata l'ambizione della mia vita, dove qualcuno mi considerasse oggetto. Ma questa è sempre una spiegazione personale che viene da un uomo, certo, chiaramente, chiaro. Quindi è tutto un vissuto completamente diverso. Comunque la vita di una donna è diventata schizofrenica, perché deve essere manager, deve essere la madre, deve essere la moglie, deve essere l'amante, deve essere tutto. E sicuramente in questo tutto si perde la persona, cioè la persona non esiste più, cioè una donna non viene vista più come una persona, ma con mille sfaccettature di quello che deve essere, cioè un po' come dice Pirandello, no? E quindi in quale film vede rappresentata questa drammatica condizione esistenziale della donna contemporanea? Forse proprio quello di cui stavate parlando prima, perché comunque è una persona che cerca di emergere in qualche modo, però subisce sicuramente... La Sandrelli o Monica Vitti, che viene presa a cazzotti da Alberto Sordi? Forse mi piace di più Monica Vitti. Che dice: io lo amo, e lui continua a prendere a cazzotti sul Lido di Ostia, e alla fine dice: non lo amo più. Mi piace molto Monica Vitti, perché comunque è molto ironica, diciamo, come... Perché sembra quasi che Lidia Gusto essere presa a cazzotti da Alberto Sordi. Più che gusto, è una provocazione, cioè è una ricerca di se stessa, di capire innanzitutto cosa vuole lei, sicuramente, e comunque una provocazione all'uomo, sicuramente è un aspetto nuovo della donna nel cinema italiano, quello di Monica Vitti, cioè la vedo molto più moderna di tantissime macchiette che esistono adesso nel cinema. Sanzonna, rispetto a quello che dice Rossana, sì, sembra molto sensato. Monica Vitti è una donna molto bella, è la prima donna molto bella, molto diva nei film di Antonioni, che riesce anche a essere ironica, introduce questa chiave nuova, la prima, infatti forse è stata la più grande per me in Italia. In assoluto è vero, sì, assoluto è vero. Emilia, buongiorno. Buongiorno a tutti, io ho cercato di inserirmi nella trasmissione quando parlavate del pappone, del marito, dell'uomo parassita. E siccome, avendo vissuto negli anni 60 la mia gioventù, in quel tempo era proprio così, nella provincia combinavano i matrimoni al bar, i ragazzi era una corsa alla ragazza più abbiente, alla persona più benestante, e restavano indietro magari anche perché no, quelle carine. Col passare del tempo però si è verificata una cosa, che i matrimoni d'amore sono falliti, molti, non tutti naturalmente. Vabbè, perché l'amore non è mica eterno, è chiaro. Hanno retto, signor Nicoletti. Ma non se lo spiega, mi sembra logico. Mi sembra logico, ecco. I primi erano giusto, era un lecito contratto basato su patrimonio che ognuno portava, lei portava la sua cozzaggine unita però a molto denaro, lui portava probabilmente la sua prestanza unita alla sopportazione. E l'amore invece è futile, è qualcosa che passa, non dura in eterno. Perfetto, la spiegazione non c'è replica, però è duro constatare quando non è più un futuro davanti, no? E tutto è dietro alle spalle, e siccome non hai più un futuro davanti, il divieto va davanti e tutto ti ritorna. Sì, ma molti hanno il proprio avvenire proprio dietro le spalle, dipende dal punto di vista. Sì, ho capito, voglio dire, però c'è sempre un po' di amaro in bocca per questo. Lo so, la vita è dura, bisogna farsene una ragione, cara signora. Va bene? Sì, grazie, e anche le stagioni buongiorno. Non sono più quelle di una volta. Yolanda. Buongiorno Nicoletti. E io da poco che ascolto la trasmissione, facevo dell'altro prima, però non so se qualcuno l'abbia già detto, però il cinema praticamente, soprattutto in quell'epoca, era soltanto maschile, cioè i registi erano soltanto uomini, per cui è chiaro che l'immagine della donna, cioè, ci si accanisce un po' sull'immagine della donna, d'altra parte neanche gli uomini ne escono bene da questi film. Perché secondo lei gli uomini odiano le donne? No, no, assolutamente, non credo che ci sia una cosa del genere, però è chiaro che si infierisce sulla parte più debole, comunque... E perché invece le donne, quando parlano di donne, hanno un tocco delicato e comprensivo? No, non hanno un tocco delicato per niente, sono delle caricature, sono delle maschere, certe volte tragiche, però dico, anche gli uomini sono delle piccole figure, non hanno spessore. Sì, ma con Sansonda, questo ripeterà il concetto, abbiamo detto più volte, sono uomini meschini con donne a volte molto belle, però in queste donne belle esiste una galleria molto variegata. Giuseppe Sansonda. Io ricordo ancora questo regista Pietrangeli, che ha fornito, oltre a glielo conoscevo bene, una serie di ritratti femminili meravigliosi, pieni di sfumature, con uomini meschini anche con le loro grandezze, con le loro abiezioni, ma ne ha fatti diversi di film, e forse è stato quello che ha fornito i ritratti femminili più interessanti. Adue, Le compagne, La visita con Sandra Milo, è un regista importante, e forse l'immagine della donna meno legata a un cliché l'ha fornita lui negli anni 60. Peppi, con sta carta te stai a giocare 800.000 lire. Beh. Antonio, non si danno suggerimenti al proprio partner. Ah, se preoccupi, signore, io con sta carta non c'ho bisogno di suggerimenti. È la vecchia che manca strada. Ma se te lascia il 4 a tavola, tu cerca di ragionare, non mi buttare il 3, che così se becco il 7 è bello. Ma se io te lo facevo in mano a te il 7 è bello. Come faccio a sapere che c'è la vecchia? Quando te guardo fisso e storco la bocca dalla parte, che vuol dire? Che vuol dire? Che c'è il ticket nervoso, c'ha la pure da ragazzina. E beh, qua è qualcosa di totale inventiva, due figure di donne, Silvana Mangano e Bette Davis. La vecchia era una miliardaria sadica che andava a giocare a scopone scientifico dai morti di fame e portargli via i tozzi di pane. La Mangano e Alberto Sordi sono i campioni dello scopone della loro borgata, quando passa la vecchia provano loro a tirargli fuori qualche soldo. La Mangano è ecco un'altra figura di attrice incredibile, straordinaria, che riesce a passare da Teorema al riso amaro che l'ha lanciata come maggiorata fisica, a creare questa donna austera col suo viso antico, e che in borgata fa la moglie volitiva di un uomo un po' allo sbando come Sordi, un uomo che va a retto, e cercano con questa scommessa continua, questa partita in cui si giocano tutta la vita, di riuscire a estorcere un po' di denaro a questa Bette Davis, che viene direttamente dal mondo sulfuro di che fine ha fatto il vero cervello della coppia è lei è un cialtrone totale, radicale, sì. Quindi la sfida è fra due donne, la vecchia brutta, rinsecchita e schifosa ma piena di soldi, che vuole buttare nel fango la bellezza intangibile, sembra, della Mangano. Il suo sadismo è quello di Che fine ha fatto Baby Jane, quello di Bette Davis, che ha questo maggiordomo che Joseph Cotten, l'attore dei film di Wells, che fa il maggiordomo tipo von Stroheim in Viale del Tramonto, insomma, cioè, e sono queste due coppie che si infronteggiano, e un po' sono anche i rapporti fra America e Italia, insomma, cioè l'America che arriva e cerca di colonizzare, cerca di strappare anche qui semplicemente in maniera sadica, creando un rapporto di forza con questi due borghesi. Diciamo, il tozzo di pane lo paghi a caro prezzo, mi devi dare la tua identità e la tua dignità. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. No. La mia pettina. Ma perché me la levi? Ti pare troppo cicciotta? No, ma è proprio quello che non devi mangiare, grassi e carboidrati. Ah, oh, io sto a leggere quel libro che mi hai dato. Molto tosto, eh. Dumas tosto? I tre moschettieri. E tu non mangi? No, ma grazie, non posso mangiare idrocarburi. Come ti sbagli? Tante volte mi domando, io che sarei se Gianni si sarebbe sposato a un'altra donna? Giuseppe Sanzonna qua è meraviglioso, è una donna che deve stare all'altezza della spocchia da maestrino di scuola elementare di un marito che è intellettuale. Sì, c'è Gassman che viene dal mondo, ex partigiano, che ci eravamo tanto amati di scuola del 74, sposa questa donna ignorantissima che è la figlia del terribile palazzinaro Aldo Fabrizi, che incarna, palazzinaro metafisico anche lui, no? Che incarna tanti devastatori della capitale con cemento armato, armati di cemento armato. E la figlia, appunto, rappresenta per Gassman un approdo nel mondo della ricchezza, dell'opulenza, insomma, il riscatto sociale. Però il prezzo che deve pagare è quello di avere questa moglie fieramente ignorante, che però cerca di dirozzarsi attraverso le sue lezioncine. Qui la rally è strepitosa, anche perché poi nel corso del film incarnerà anche una sorta di ferocissima parodia della Vitti antonioniana. Anche lei comincerà a registrarsi, a trovare piacere solo nel toccare oggetti inanimati in casa, insomma, questo. Ecco, su questa necessità invece di acquisire punteggio dal punto di vista dell'emancipazione culturale esiste anche un'altra coppia favolosa e storica, quella di Alberto Sordi e la moglie ciccionissima, costretti dai figli a fare le vacanze intelligenti. Per fornirne poi, subito dopo il sorpasso... Ma che dice quello? Che dice? Spiega. Spiega. Nell'erigerla. Le cose che noi non potremmo capire. Che è buona mela, re? No, non fa ste cose. E non se famo riconoscere a tutti, eh? Ma che so? So in budini, vedi? Pure io li metto così quando spiccia la cucina. Sì. Ma che cazzo c'entra la cucina? Agù, è una scultura questa. Stiamo a Biennale. Pure lei mette così. E vorrei darti un'altra suggestione, Sansonno, così poi ha un quadro più completo, di un'altra coppia dove avviene esattamente l'inverso. La donna emancipata, la donna che ormai ha acquisito tutti gli strumenti delle più variegate declinazioni della sua femminilità, si trova nell'isola deserta con un buzzurro totale e quindi riacquista questa quasi ferina lussuria per l'uomo che puzza. Ma che gusto c'è a tormentare così una poveraccia? Poveraccia. Poveraccia sei tu, eh? Va bene, va bene. Riccaccia! Avanti. Andiamo a lavorare. Hai capito? Perché chi non lavora non mangia. Peppole la senso. Ma... Oh, madre, ma... Ma scusi, ma non ho ancora finito questo gioco di massacro. Ma perché l'ha preso così? Non è bastato un disastro questa scemenza che ci è capitata? Ma perché fammele pagare tutte a me le rivendicazioni? Poi finirai in un delirio di masochismo a chiedere a Giannini, infame, dopo averlo trattato malissimo, quasi a terra, sodomizzami, sì. Lui dirà sadichizzami, sì. Non capì manco cosa chiedeva. Non parlare è difficile, non capisco, dice su sodomizzami, dirà Giannini alla Melato. No, qui c'è appunto la Melato, è come la Vitti che è uscita dal salotto borghese ed è precipitata nel paradiso naturale a cui aspirava la Vitti nei film di Antonioni, però si trova al cospetto di quest'uomo, del buon, non tanto buon, selvaggio Giannini. Capisce che c'è anche un lato doloroso nella conoscenza di questa ferinità maschile. Stella, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Sì. Allora, scusi, abbiamo toccato temi laceranti, lo so, ma in questo momento dobbiamo sviscerare la materia. Prego. Mi scusi, ma andate via. Mi scusi, ripeta quello che ha detto. No, dico, abbiamo toccato temi laceranti, però mi rendo conto che il contributo dell'ascoltatrice in questo caso è corroborante per riportare la trasmissione a una dignità ascoltabile. Perfetto, la ringrazio. Io parlo della mia esperienza personale come tocco di bella butela, come si dice qua nel Veneto. E con questa tradotto sarebbe? È una gran bella ragazza. Ah, una bella gnocca. Due seni, in italiano. Esatto, eccetera. Altrettanto mia cugina, che era la fotocopia, così dicevano, di Sofia Loren, era una strepitosa bellezza. Quello che io ho notato fin per me da bimba e da ragazza e da donna poi, era la mia, a un certo punto per me, vedere la Mangano, vedere Ava Gardner, vedere queste strepitose, poi anche conoscere qualcuna delle nostre attrici splendide italiane, era come, per me era incontrare la divinità, era incontrare donne che avevano un senso di identità sacra, magari poco, ma che a me ne davano tanto. Però lei faceva parte di questa categoria, era bellissima anche lei, immagino sì, sarà ancora bellissima. No, ma la cosa tremenda era che negavo questa mia bellezza, fino a che a un certo punto, dopo sposandomi e avendo dei figli, mi accorsi che insomma, perché la bellezza era trattata che volevano ma o toccarmi o corteggiarmi in un certo modo. Beh, scusi, ma non capisco la sua legnosità, è normale? Oh no, no, non è legnosità, assolutamente, è normalissimo, ma scherziamo, no? Che noto, e questa è una critica mia verso le mie donne, il genere, verso insomma, non diamo oggi un senso sacro, importante a questa nostra bellezza, non siamo identificate, ma in qualche maniera come queste ragazze che le chiamano veline eccetera, sono una bellezza strepitosa, loro per prime, noi per prime non abbiamo questo senso, che ne so, arriva un regista, arriva il nostro uomo che si innamora grandiosamente, allora accettiamo una bellezza anche come aspetto. Scusi, ma lei non ha visto negli occhi di un uomo accanto a lei, lasci perdere i registi, lo star system, non ha visto mai negli occhi di un uomo accanto a lei una sorta di religiosa perdizione per esatto, la sua bellezza? Ed è questo che io, attraverso questo io l'ho imparato, non l'ho imparato mai attraverso uno sguardo quasi religioso di donne verso altre donne. E beh, quello se che no... pretende, chiaro, se lei è bella fa schiattare le altre donne, le butterebbero il vetriolo addosso, ma questo non occorre essere profeti per saperlo. No, io sono convinta che oggi nel 2010 le donne sono capaci di vedere anche un'alterità e riconoscere semplicemente una bellezza assolutamente senza competizione. Sì, perché oggi esiste il chirurgo plastico, dice guarda questa quanto è bella, mi rifai le tette uguali a lei e gliele rifà. Certo, ma ai suoi tempi non era possibile. No, oggi, e parlo di oggi, veramente parlo solamente di oggi, non siamo ancora probabilmente, non so se sbaglio, sono Nicoletti, in grado di riconoscere un aspetto divino, cioè io sono nata così semplicemente e le altre donne sono altrettanto belle senza cascare in questa cavolata. Guardi, l'aspetto divino dell'essere donna lo percepisce soltanto quando vede un uomo in ginocchio, solo che dopo quando lo vede in ginocchio non sa più che farsene, ma questa è un'altra delle insondabili misteri dell'umanità. Anna. Anna sta ridendo. Meglio così. Avete smosso tutto quello che era possibile smuovere. Beh, oddio, adesso non esageriamo. No, sì, ma io sono di fuoco e quindi si smuove facilmente. Io sono emiliana e ho 68 anni, ma comunque queste storie in qualche modo... Però non si smuova troppo, perché... non si smuova troppo, dico. Ma no, nel senso che rifiuto tutto quanto. Io non andavo a vedere i film di Alberto Sordi, ecco, forse l'unica valida era Monica Vitti, però è tutto un mondo, secondo me, creato da fantasie, da continui stereotipi, la realtà è un'altra. Però scusi signora, Anna, anzi, sì. Lei ha appena detto, sono di fuoco, mi smuovo facilmente, sono emiliana, cioè si è sigillata nel più meraviglioso ma nel più calcato degli stereotipi, l'emiliana che fantasticamente accende la... non l'emiliana quella... di quelle cose. Sono emiliana a livello di tipo di energia, questo di nuovo non bello stereotipo, ma parte da lei. Ha cominciato lei. Perché un'emiliana deve essere assolutamente di quel tipo. Ma l'ha detto lei, io non mi sarei mai permesso. Ma io ho detto che sono emiliana per dire che sono emiliana. No, ha detto prendo fuoco, signora. Sì, prendo fuoco, ma a livello... intellettuale, a livello sì. Culturale, a livello di comunicazione. Ormai sentito dire, mi prende fuoco il cervello, scusi, non esiste. Sì, il cervello. Va bene, mi fa piacere, complimenti. Non sopporto gli stereotipi e tutti quelli che ci giocano. C'è tanto, tanto altro nella vita. Tanto altro e lei lo sa. Sì, spero di saperlo sempre di più. Grazie Anna. Chiudiamo con Rosanna. Buongiorno, signor Nicoletti, mi sente? Certo. Lei non è un attore, ma se fosse un attore sarebbe il mio attore preferito. Sì. Questo dal punto di vista come uomo. Sì. Volevo parlare di Anna Magnani. Per me Anna Magnani è il massimo, è veramente una donna eccezionale e mi piace sotto tutti i punti di vista, sotto tutte le sue sfaccettature, perché... dimostra un animo forte, anche aggressivo, nello stesso tempo è piena di tenerezza, di ardore, soltanto guardando i suoi occhi dicono tutto, quindi io praticamente ci trovo tutti gli aspetti positivi di una donna eccezionale. La drammaticità di Anna Magnani, Giuseppe Sansonna, in questa signora rappresenta non uno stereotipo, ma quasi una pietra miliare della femminilità del nostro paese. Sì, sì, l'intensità, la particolarità, prima si parlava appunto forse dell'omologazione attuale, invece queste donne incarnavano delle particolarità, delle diversità, delle unicità, la Magnani. Ne abbiamo anche un'altra di cui spesso abbiamo parlato in questa trasmissione, che ha trovato un ampio consenso e un'ampia corrispondenza nell'esperienza quotidiana di tante ascoltatrici. Ma come ti sei conciata? Per questa pettinatura che si chiama schiaffo, sono stata 2 ore dal parrucchiere. Va bene? Beh, allora vatti a spettinare, perché così non sembra neppure un essere umano. Vai! Ugo, devo dirti una cosa importante. No! Non dirmi il risultato della partita, per favore, Non è il risultato, è una cosa molto più importante. Allora, ti concedo 20 secondi di udienza. Dei! Mi sono innamorata di un altro uomo! Vabbè, ora hai detto e vai che c'è la partita. Sansonna, proprio una battuta in un secondo, Pina Fantozzi come Monica Vitti. Sì, in qualche modo Milena Vukotic è strepitosa, che a fianco di quest'uomo che non ama ma stima moltissimo, questa è la battuta più bella, Ugo non ti amo, ti stimo moltissimo, insomma. Che sovrappone l'immagine erotica del venditore di sfilatini, schifoso, lardoso e puzzolente, che però in questa eterna altalena tra l'uomo di tutti i giorni e l'uomo dei sogni non sa ancora una volta scegliere. Grazie Giuseppe Sansonna, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.